Sono quasi 4 milioni le risorse che vengono messe a disposizione per alimentare la rete regionale che lavora quotidianamente per contrastare la violenza sulle donne. Parliamo di enti locali, associazioni, centri antiviolenza, case rifugio, il privato sociale, una rete che funziona molto bene in questa regione. E noi abbiamo, anche per la prima volta, deciso di mettere nuove risorse perché uscirà a breve, nei prossimi giorni, un bando regionale rivolto a tutti gli enti locali, le associazioni del nostro territorio, per lavorare sulla prevenzione e sulla protezione per le donne. Il primo presidio è mettere in sicurezza le donne che decidono di denunciare la violenza. Voglio ricordare che anche per quest'anno i dati sono dati importanti, sono circa 3.000 1.500 le donne che si sono rivolte ai nostri centri antiviolenza e 3.100 circa sono le donne che hanno subito una violenza. Decidere di fare questo passo è importante, la consapevolezza, ma poi serve anche permettere a loro di uscire da questi circuiti della violenza e diventare autonome. E autonomia significa autonomia prevalentemente economica, quindi bisogna dare una risposta sul fronte del lavoro, essere autonome da un punto di vista occupazionale ed emergenza abitativa. Ecco perché dei 4 milioni molte risorse sono anche finalizzate a individuare delle soluzioni abitative, delle case per queste donne che diventano appunto autonome con i loro figli. E poi risorse per i centri rivolti agli uomini autori di violenza. Prima avevamo 3 centri, a Parma, Modena e Forlì, da quest'anno sono altri 2 centri che sono stati finanziati, a Bologna e a Rimini, e tanti altri progetti legati all'educazione e alla prevenzione, a partire dai più giovani. Noi stiamo lavorando con le scuole perché il tema possa diventare un tema che rientra anche in quei percorsi formativi che i più giovani affrontano fin dai primi anni, insomma, di scuola.